Grazie anche a Leo. Padre di famiglia, marito di una sola moglie, come vuole la Bibbia. Una già basta. Cantante, musicista, uomo ricco di talenti, responsabile del Ministero di Lode e Adorazione, ministro di questa chiesa, insegnante, predicatore e chi più ne ha più ne metta. Leo, che dono meraviglioso che Dio ci ha dato, vero? Regina, dove sta? Sei d'accordo? Sì, meno male. Questi tre termini, come sono? Nomi? Parole, ecco, per andare. Ci tartassano per gli incontri di condivisione, ci tartasseranno sempre perché tutto è basato sul perché, il cosa, il come. Come leader a volte ci concentriamo troppo sul cosa facciamo, abbiamo visto la scorsa volta, e non ci preoccupiamo troppo sul perché lo facciamo. E invece tutta l'attenzione, amici, fratelli, sorelle, tutta l'attenzione deve essere sul perché. Meno male che almeno mio fratello mi dà soddisfazione in prima fila. Deve essere sul cosa fai, è motivato e deve essere motivato da perché lo fai. Questa è la cosa più importante. Mimmo, tu cosa fai in chiesa? Do fastidio. E perché lo fai, dice Antonio, giustamente. Non lo so ancora. Per servire Dio. Cosa fai? Servo al rifugio. Al rifugio. Cosa fai al rifugio? Tutto. E perché lo fai? Perché penso che è un posto che Dio... Già Dio si è usato molto di questo posto per arrivare alle persone. E penso che Dio ha anche progetti più grandi per quel posto. Amen. Damiano, tu cosa fai in chiesa? Servo nell'area delle giovani, nelle famiglie, nelle coppie appena sposate. Nelle coppie appena... Perché lo fai? Perché credo che la famiglia può essere un impatto nella società. Ed è lì che dobbiamo lavorare. Amen. No, vedo che tutti gli sguardi si abbassano perché non vogliono che gli punto il microfono. Però Maria, tu cosa fai in chiesa? Cosa fai Maria in chiesa? Sono capogruppo dell'accoglienza. Fantastico. E perché lo fai? Perché è fantastico accogliere la propria famiglia e donare amore di Dio. Per quale altra ragione lo fai? Per trasmettere quello che il Signore ha messo in noi, quindi il donare amore senza aspettarsi nulla e essere gioiosi del Signore. Bellissimo, facciamo un applauso a Maria, che bellissima cosa che ha detto. Angela, Angela, cosa fai in chiesa e perché lo fai? Io sono in libreria, e, cioè, il servizio in libreria, innanzitutto servo in libreria perché è stato il modo più immediato in cui ho pensato di poter servire. Ho rivestito in passato altri ruoli, però in questo momento sono in libreria. Innanzitutto servo perché credo che servire Dio sia una cosa a cui un credente non deve necessariamente farlo, perché non si può essere credenti con il cuore e non pensare di restituire una piccola parte di quello che Dio ci ha dato attraverso il servizio. E servire non solo in chiesa ovviamente, ma servire come credenti anche fuori dalla chiesa a 360 gradi. Però in chiesa, alla libreria, noi abbiamo come obiettivo quello di portare, attraverso la vendita di libri e di tutto ciò che possa edificare un credente e anche uno che non è credente, che magari si vuole approcciare alla conoscenza attraverso la lettura, e quindi siamo lì per cercare di rendere questo servizio il migliore possibile. Non so se ci riusciamo, però. Ci riuscite sicuramente. E quanti sono d'accordo con me? Ah, meno male. Vediamo un po', c'era Olimpia qua. Olimpia, cosa fai tu in chiesa? Adesso nulla. Niente, non fa niente! L'avete sentita? Non fa niente! È nel posto giusto, al momento sbagliato però. Perché non fa niente? No, scherzo, scherzo. Povera. Antonio, tu cosa fai in chiesa? Sono capogruppo di del gruppo di Ups & Down, servo alle luci, nel team eventi, insomma non sono la quantità di cose che svolgo, avrei potuto svolgere anche solo una cosa, è il cuore che ci mettono in quello che faccio. Perché il tempo non è mio ma è di Dio, quindi ogni cosa va a Dio, anche se mi rimanesse un solo secondo lo darei a Dio. Che bello, capite perché è così importante concentrarci sul perché? Noi facciamo quello che facciamo perché abbiamo un Dio meraviglioso che noi vogliamo servire. E lo facciamo per le persone che ci sono attualmente, per usare i termini di Paolo, per portare ognuno all'altezza della statura di Cristo. Noi facciamo questo affinché ogni credente, ogni persona che fa parte di questa famiglia sia portata all'altezza della statura di Cristo, e lo facciamo anche per quelle persone che ancora non conosciamo, i cui volti non conosciamo, i cui nomi non conosciamo, per costruire per loro un futuro. Per loro che un futuro non ce l'hanno, noi glielo stiamo già costruendo. Amen? Noi siamo qui per questa ragione, facciamo quello che facciamo perché siamo mossi anche dall'amore che abbiamo per Dio. Nel nostro motto è presente proprio le parole impegnati a ubbidire al grande comandamento. Il grande comandamento è proprio amare Dio e amare gli altri. Noi facciamo quello che facciamo perché amiamo Dio, perché siamo profondamente innamorati di Dio e vogliamo con tutto il nostro cuore, con tutta la passione di persone innamorate, servirlo, onorarlo, glorificarlo, adorarlo attraverso il servizio che prestiamo. Quando noi vendiamo del materiale in libreria, noi stiamo manifestando il nostro amore per Dio, perché vogliamo vedere persone che crescono nella conoscenza di Cristo. Quando noi prepariamo i lavoretti per i bambini la domenica, noi stiamo amando Dio, perché lo stiamo facendo affinché i bambini crescano nella conoscenza della sua parola e siano edificati per camminare nelle sue vie. Quando noi accogliamo le persone, come diceva Maria, lo facciamo perché amiamo Dio, perché vogliamo manifestare l'amore che ha cambiato le nostre vite, che può cambiare le vite di ogni singola persona che varca quella soglia ed entra in questi locali. Noi siamo motivati dall'amore per Dio e dall'amore per gli altri. Lo facciamo anche perché amiamo gli altri. Ah, c'è Luigi. Luigi, tu che fai in chiesa? L'hai detto prima, cerco di rendere dei piccolini grandi quanto Gesù. Amen. Amen. Perché lo fai? Cosa ti motiva più di ogni altra cosa a farlo? Un forte sentimento che Dio ha creato in me, di prendermi cura di quelle fasce d'età che generalmente potrebbero avere poca importanza anche all'interno di un contesto di chiesa, e quindi dare importanza ai bambini quanto Dio gli dà. Quindi questo è quello che mi spinge, è un profondo sentimento che Dio ha messo nel mio cuore. Questo è un uomo fantastico, è vero? Vogliamo dargli un applauso, perché è da anni che lo fa e lo fa con un cuore che manifesta tutto l'amore che ha per Dio e per gli altri. Lui sta amando i tuoi figli, lui sta amando te nel servizio che offre. Io prego che veramente anche questo non venga mai sottovalutato da parte nostra, che noi facciamo quello che facciamo per gli altri, perché è facile pensare che lo facciamo solo per Dio, e nel momento in cui abbiamo difficoltà con gli altri ci tiriamo un po' indietro, rimaniamo scottati, rammaricati e vogliamo ritirarci da quello che facciamo. Ma è importante riconoscere che quello che noi facciamo lo facciamo anche per gli altri. E qualcuno a volte viene a me e dice: Mirko, ma io a quello proprio non lo sopporto, che non lo dirà mai così, no? Perché noi abbiamo la traduzione cristiana, no? Di dire una cosa del genere, no? E mi direbbe, pastore, lui, questo fratello mi sfida molto nella pazienza, no? Usa questo tipo di terminologia, oppure il Signore mi sta insegnando ad andare avanti nonostante quella persona, no? Queste frasi tradotte che letteralmente in realtà vogliono dire: io a quello non lo posso vedere, toglimi da questo impegno, cambiamo responsabilità perché quella persona la voglio più vedere. Ma è per quella persona che tu fai quello che fai, è per le persone che ti amano e che tu ami, e per le persone che non ti amano e che tu ami comunque. Perché questo è importante che noi realizziamo e ci ricordiamo: noi amiamo coloro che ci amano e amiamo anche coloro che non ci amano. Noi amiamo coloro che amano Dio e amiamo anche coloro che non amano Dio. Noi amiamo coloro che credono e che ci incoraggiano e ci sostengono in quello che facciamo in questa chiesa, e noi amiamo anche quelli che ci mettono i bastoni tra le ruote, ci criticano e sparlano di noi. Noi amiamo ogni persona perché il nostro Dio ama ogni persona, perché Lui ama il mondo e quindi noi amiamo il mondo. Noi amiamo indistintamente, giusto? Sono andato bene? Noi amiamo tutti indistintamente, non facciamo una scelta. E questo è così importante, fratelli e sorelle, che ce lo ricordiamo, perché la Chiesa è fondamentalmente quella meravigliosa invenzione di Dio di mettere persone insieme, persone che non sono unite dagli stessi gusti, dalle stesse propensioni, dalle stesse dagli stessi piaceri, ma le unisce per farci esercitare un amore che senza di Lui non potremmo mai vivere. Quindi Lui ci unisce proprio per farci esercitare l'amore. Lui ci unisce proprio perché vuole che noi cogliamo la sfida di amare il nostro prossimo, partendo da questa casa, partendo da questa famiglia. È per questo che io voglio incoraggiarti nella responsabilità che hai. Hai per forza a che fare con fratelli e con sorelle, hai per forza a che fare con delle persone di questa famiglia, e per forza ti scontrerai con qualcosa che non va nell'altra persona. Decidi oggi di fare di quelle parole chiave della Bibbia, quali perdono, sopportazione, amore incondizionato, edificazione, incoraggiamento, le tue parole che muovono il ministero che porti avanti, muovono la responsabilità che porti avanti. Amen? Amen. Allora ci alziamo in piedi e vogliamo fare una cosa. Forse sei qui e forse hai da perdonare qualcuno. Forse sei qui e devi lasciarti dietro qualcosa. Forse sei qui e devi ripartire da zero. E io credo che è così importante che quello che stiamo per fare adesso tu lo possa rinnovare ogni giorno. Perché è l'unico modo per servire il Signore ed è l'unico modo per servire la Chiesa. Perdonare, amare e offrire grazia. Vito ha portato un bellissimo messaggio qualche settimana fa alla Chiesa tutta ed era su questa storia del debitore, no? A cui è stato condonato il debito enorme di 10.000 talenti e poi ha avuto difficoltà a perdonare o a condonare il debito di 100 denari. L'unica maniera attraverso il quale tu puoi impersonare ed essere le mani, i piedi, la bocca di Cristo è perdonando. Non puoi essere qui con un bagaglio del passato, non puoi essere qui scansando dei credenti, non puoi essere qui avendo difficoltà nel collaborare con qualcuno che è in questa stanza. Devi assolutamente perdonare, devi dare grazia e devi vivere la grazia. Quindi io vorrei che noi tutti chiudessimo i nostri occhi e che tu, pensando a chiunque, a qualsiasi persona per la quale provi una riserva, in questo momento lo lasci andare e lo perdoni, nel nome di Gesù. Facciamolo personalmente, ciascuno di noi. Grazie. fare quello che stiamo facendo in questo momento è tanto semplice quanto doloroso a volte. E forse ci sono alcune persone che hanno difficoltà questa sera a perdonare, a lasciare andare, a non avere bagagli o riserve nei confronti dei fratelli, delle sorelle. Ma quello che io prego nel nome tuo, Gesù, è che noi come Chiesa possiamo essere caratterizzati da quell'amore che ti caratterizza. E nel nome di Gesù noi non vogliamo assolutamente nel nostro mezzo nessuna forma di rancore, nessuna forma di bagaglio passato. Pare ogni ferita che abbiamo subito, ogni torto che abbiamo subito, pare noi in questo momento vogliamo avere la forza che proviene dall'alto, da te, per porgere l'altra guancia, per benedire coloro che ci maledicono e per offrire grazia e perdono a coloro che hanno infierito anche nel nostro percorso, anche nella nostra leadership nella Chiesa. Padre, noi vogliamo vivere nel perdono e io prego nel nome di Gesù affinché come Chiesa possiamo viverlo e respirarlo in ogni area, in ogni settore, in ogni responsabilità che portiamo avanti. Grazie per questo momento, grazie perché tu sei qui e tu ami vederci fare queste cose. E Padre, io prego che la tua benedizione possa essere anche su tutte quelle persone che nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, hanno difficoltà nel perdono e hanno delle ferite aperte, hanno dei rancori aperti, hanno delle questioni ancora irrisolte. Noi Padre preghiamo che tu possa mettere la tua protezione in questa famiglia, in questa chiesa, creando un'unità divina dettata dalla grazia tua. Grazie Gesù. Amen. Amen. Amen. Possiamo accomodarci. Questo era qualcosa che sentivo nel cuore di fare per questo momento, ma sento che è proprio qualcosa che devo incoraggiarti a fare per ogni passo, per ogni percorso, per ogni decisione, per ogni sfida che stai vivendo nella collaborazione con altri leader in questa chiesa. È così facile cozzarci fra di noi, impariamo a perdonarci, impariamo ad offrire grazia, ad amarci. Amen? Amen? Ah, ok, ora un po' di più. Quello che faremo oggi, quindi questa era solo l'introduzione, pensate un po'. Quello che faremo oggi non è parlare tanto del perché, anche perché l'abbiamo visto la scorsa volta, quindi se vuoi puoi prendere gli appunti da qualcuno che c'era. Chi c'era la scorsa volta? Vediamo le mani, potete andare a queste persone, la maggior parte, che bello. Oggi vedremo il come, perché dopo il perché, la cosa più importante della nostra leadership, della nostra responsabilità all'interno della Chiesa è come facciamo quello che facciamo, come viviamo la nostra leadership, come parliamo, come ci muoviamo, come agiamo, come collaboriamo. Il come è molto molto importante, qualcosa che viene direttamente dal perché ed è sicuramente la seconda cosa più importante di queste tre parole. Però prima di andare a vedere il come, oggi lo faremo in una maniera speciale, io voglio dare degli accenni sul cosa, no? Perché poi si sente male il cosa, si sente un po' abbattuto, ignorato, trattato male, ma c'è un cosa e ci sono tante cose che come Chiesa facciamo e sono belle, sono tante, sono belle e sono in crescita. Ora, siamo una Chiesa che è in continuo movimento e siamo una Chiesa che fa tante cose e le cose che facevamo ieri non le facciamo più oggi e le cose che faremo oggi, che facciamo oggi, probabilmente non le faremo più domani. Ed è per questo che è così secondario il cosa, perché il cosa non determina chi siamo, è il perché che determina quello che noi siamo. Il cosa prende forma dal perché e cambia e si evolve continuamente. Siamo, come credo che vi siete resi conto, soprattutto negli ultimi 6 mesi, io me ne sono reso conto moltissimo, siamo in una fase di chiesa di cambiamento, no? Abbiamo un nuovo pastore, chi è? Qualcuno che si guarda in giro? Abbiamo un nuovo pastore, abbiamo c'è tanto movimento all'interno della leadership, ci sono cambiamenti che riguardano la leadership, e avviene molto dietro le quinte, quindi la Chiesa non tanto percepisce i cambiamenti che stanno avvenendo, però ci sono riunioni su riunioni su riunioni, perché al nuovo pastore piace incontrarsi, piace stare insieme, piace cenare insieme, piace parlare, discutere, pregare, e ci sono tante riunioni di tante squadre, perché noi crediamo nel valore della squadra. Noi funzioniamo come Chiesa, come squadra. Mi è capitato recentemente di essere in quelle riunioni che non avrei mai immaginato di dover fare, ovvero una riunione con altri pastori della regione, e veniva proposto qualcosa e io ho detto sì, potremmo farlo, però ho bisogno di parlarne con la mia squadra. Ho avuto uno sguardo lì per lì da questo pastore che era scioccatissimo, cioè che cos'è una squadra? Chi sono questi anziani che devono decidere sulla sorte di questa decisione? No? Perché molto spesso si vede il pastore come il boss che decide un po' tutto, ma non è così. La Chiesa è un organismo fatto di tante persone. Io voglio leggervi un verso che è determinante, in Efesini 4, dal versetto 11-15, che ho citato già prima, che dice questo, che è Lui, Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi e in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Vedete com'è? Ci sono vari ministeri e non vanno visti separati, no? Come se l'evangelista sta da una parte, l'apostolo sta dall'altra, il profeta da un'altra, e abbiamo questi ministeri itineranti e separati fra loro. No, Cristo ha deciso che noi lavoriamo in squadra, che quello che io so fare possa compensare quello che tu non sai fare, quello che tu sai fare possa compensare quello che io non so fare. È insieme che si va avanti, è insieme che si decide, è insieme che si porta avanti. Chiaramente questo secondo anche un ordine preciso, e ci sono delle responsabilità che mi sono date, quindi non è che mi lavo le mani su tutto, no? Ci sono delle cose che ci devo mettere la faccia, ci devo mettere l'impegno e ci devo mettere la responsabilità. Ma vedete quanto è bello questo verso, che mostra che l'edificazione del corpo di Cristo è dettato da una squadra in azione, da più doni che insieme collaborano in unità. Andiamo avanti. E poi dice il verso che ho citato prima, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. Questa è la volontà di Dio per la Chiesa, che noi tutti giungiamo allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma, seguendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E io a questo vorrei collegare subito qualcosa che stiamo facendo come Chiesa. Come Chiesa vogliamo potenziare quanto più possibile tutta quell'area che ha a che fare con la formazione, con lo studio della parola, con gli insegnamenti, con i corsi. Perché capite bene che i 40 minuti che abbiamo a disposizione domenica dopo domenica per dare un messaggio a un numero così grande di persone, anche in percorsi di vita così diversi, dalla persona che viene la prima volta in chiesa al credente maturo che è qui da 40 anni, è difficile, non può rispondere, quei 40 minuti non possono rispondere a quella formazione, a quella crescita alla statura di Cristo. Abbiamo bisogno di creare altri contesti nei quali ogni credente viene formato e riceve insegnamenti e, se vogliamo utilizzare anche termini biblici, cibo solido, affinché non rimaniamo tutti bambini, ma cresciamo. Ed è bellissimo, e qui ci sta un applauso quando finisco di dirlo, così non rimanete impreparati, è bellissimo che abbiamo appena attivato il secondo livello del corso di consolidamento. Un po' di entusiasmo è uscito. nonostante siano quasi le 8:20, siamo ancora svegli. E questa è una cosa a cui diamo importanza. Abbiamo delineato delle aree nelle quali vogliamo insegnare che le abbiamo identificate in 3 verbi, ok? Che sono lo stare, il fare e il dare. Quello che andremo a vivere attraverso questo secondo livello di corso di consolidamento è capire che cosa, biblicamente parlando, significa essere membro di una chiesa. Conoscete, no, quel verso in Efesini 2:19 che dice: or dunque non siamo più forestieri né ospiti, ci sono alcuni che sono forestieri in mezzo a noi, ci sono altri che sono ospiti in mezzo a noi, ma noi vogliamo essere tutti membri della famiglia di Dio, giusto? Quindi noi vogliamo capire che cosa significa essere membro di questa famiglia, e essere membro di questa famiglia significa stare, esserci, noi ci stiamo a tutto questo, noi facciamo, noi serviamo, e noi diamo, noi doniamo. Questa è l'identità del membro della Chiesa del Pieno Vangelo. Mi piace la grafica anche che ha fatto Vito, non è stupendo? È bellissimo che le 3 parole si mischiano. Stare, fare, dare. Questo è quello che noi vogliamo essere. E io prego che veramente, io non voglio aggiungere più niente, anzi. Perché vorrei che questa curiosità vi porti ad iscrivervi al corso di consolidamento 2. Non ha importanza quanti corsi hai fatto in passato, iscriviti al corso di consolidamento 2. Siamo già una 40, una 50, quindi dobbiamo decidere se farlo in via Santa Lucia o farlo qui. Quindi iscriviti, così lo facciamo qui e facciamo una grande classe e ci vediamo tutti insieme ogni settimana. Ci sono tante altre cose che sono in cambiamento. Abbiamo gli eventi che avremo a Natale. A Natale il 20 di dicembre avremo un evento, poi l'incontro Dono perché amo. Quest'anno lo sposteremo molto probabilmente a inizio anno, quindi a gennaio. Sarà una festa bellissima, un'occasione per manifestare la nostra generosità come Chiesa. E poi stiamo portando cambiamenti per quanto riguarda gli incontri domenicali. Vogliamo che ogni incontro domenicale possa essere quell'occasione speciale affinché chiunque non conosce Cristo entri qui ignorante, entri qui stupido, ed è un termine biblico, ok, perché chi dice non c'è Dio è uno stolto, ed esci fuori intelligente, salvo per l'eternità e parte di questa famiglia. E questo richiede il servizio di molte persone, una struttura in tante cose, dall'appello che facciamo, alla cura che ci prendiamo, a come connettiamo queste persone nuove, all'accoglienza, a tante altre cose. Quindi stiamo lavorando a questo, stiamo lavorando al ministero delle coppie, delle giovani coppie. Serviva un pastore single per arrivare a toccare questo ministero e portarlo a un nuovo livello, che sarà una frana, perché come può un pastore single portare a un nuovo livello? Eh? No, scherzo. In realtà c'è da fare un grosso applauso a Damiano, Elisa, Saverio ed Enzo. Perché vedete, è proprio qui che si manifesta, no, l'importanza del corpo, dell'organismo, una parte che compensa l'altra. Come posso io insegnare e curare delle giovani coppie, io che sono single? Meno male che ci sono Damiano, Elisa e Saverio ed Enza, che posso dire andate da loro. Quindi questo è troppo bello, abbiamo cambiamenti lì, abbiamo un percorso nuovo che non solo cura le giovani coppie nel prematrimoniale, nel corso che fanno prima, ma anche per il primo anno di matrimonio, che è molto delicato. Vogliamo mettere le giuste fondamenta per ogni giovane coppia. E qui c'è da perdersi, perché l'elenco va avanti con quello che è... sono i gruppi familiari, Mottola e tutte le altre cose che i bambini. Vogliamo toccare ogni area e portare un cambiamento. Ora, di che tipo di cambiamento stiamo parlando? Ci sono 2 tipi di cambiamento. C'è un cambiamento che si fa quando le cose non vanno bene e non funzionano. Ok? È un cambiamento forzato, tu devi cambiare la cosa perché la macchina non sta funzionando, no? Karen, tu sei familiare con questo tipo di problema. E poi c'è un altro tipo di cambiamento che è molto più entusiasmante, che è quello che non è un vero cambiamento, ma è un'evoluzione delle cose, è un portare miglioria, è sviluppare le cose. E per grazia di Dio noi siamo una Chiesa che non vive in nessun'area il primo tipo di cambiamento, vive il secondo tipo di cambiamento. Siamo in evoluzione, siamo in sviluppo, stiamo cercando di migliorare le cose, non di aggiustare una macchina rotta, ma stiamo cercando di mettergli un motore truccato affinché possa andare ancora più veloce, no? Fatemi usare questo esempio. Quindi vivi la Chiesa, inserisciti, datti, perché questo è così importante. Ora arriviamo al come. Come possiamo essere dei migliori leader? Come possiamo più responsabilmente guidare quello che noi guidiamo? Come possiamo vivere il giusto atteggiamento, le giuste parole, le giuste azioni in quello che facciamo? Stasera lo vedremo con il leader più giovane che c'è in mezzo a noi, la persona che è più giovane dentro, naturalmente, ed è il nostro pastore, reverendo, presidente, e chi più ne ha, che ne metta, mio padre. E quindi ci accomodiamo. Prova, ci sono. Papà. Essere qui. La prima domanda, fammela pensare, come la devo strutturare. Ti sei pentito della scelta di avermi dato la responsabilità di pastore? Quanto ti sei pentito di questa scelta? Il fatto è che non l'ho fatto io. Quindi l'ha fatto il Signore insieme alla squadra, e quindi è il meglio che poteva essere, quindi non mi posso pentire, anche se volessi, ma non voglio. Io ho il papà più bello del mondo. però andiamo al dunque, ok? Andiamo proprio alla leadership. Qual è la tua definizione di leadership? Cioè, come definiresti tu un leader? Beh, visto dal mio punto di vista, è quello che è il termine più antico che la Bibbia usa per leader, servo, è servire. Io tremavo sulla sedia perché pensavo, se mo viene a me, che cosa devo dire? E mi sono coniato anche il dire, e che io dico, se viene a me devo dire, sono un pensionato factotum nella Chiesa, perché la mia gioia è servire il Signore. Ora, quando tu pensi a un leader, qual è la... Perché poi tu hai avuto a che fare negli anni con così tanti leader, non solo in questa chiesa, ma anche nel confronto con altri pastori di altre chiese. Quando tu pensi a un leader, qual è la caratteristica che più ti attrae? Qual è la caratteristica che più ti lascia impressionato positivamente? Il come, cioè... Si è leader in molti modi, perché poi, questo io ho visto anche negli anni, anche confrontandomi con gli altri, imitando gli altri, invidiando gli altri, ho sempre chiesto perdono dopo, ma imparando dagli altri. Però quello che rimane sempre più forte è il fatto di come si è leader, perché si è leader in maniera diversa anche dalla nostra caratterialità. Imprime la nostra caratterialità una direzione al nostro essere leader, e niente è sbagliato. uno è più, come dire, un leader più che dirige, un altro è un leader più che affianca, un altro è il leader, più che organizza, un altro è il leader, più che si dedica, che fa. Quindi molti modi. E per me ho visto nel tempo, anche vedendo tanti leader in giro, che è il frutto che determina la bontà di quello che tu sei, perché non sei leader per essere leader, ma per portare il frutto che il Signore ha chiesto a te. E là io vedo che questo non vale solo per i leader di chiese o di opere, ma proprio, beh, io lo devo fare l'esempio, perché allora mi sembra che stavamo qui l'altro giorno, io con una mia solita cosa di aggiustare una sedia, e c'era, non lo so se c'è in mezzo a noi, Anna Colonna qui, che è, lo devo dire, c'è Anna, allora, che è del, fa, ha il, anche il Ministero dell'Eccellenza, ma io lo devo dire in maniera diversa, fa le pulizie, va bene? E stava qui da sola perché... qualcun altro non stava bene, non è potuto venire, ma lei è venuta bene in orario e l'ha fatto. E mentre stava facendo, e noi eravamo tutti indaffarati, qualcuno è entrato e ha chiesto. E Anna ha potuto testimoniare a quella persona, non mi ricordo se era un uomo o una donna, un uomo, ha potuto testimoniare e invitarlo anche in chiesa. Quello che stai facendo non ha fine a se stesso. Porta sempre a qualche altra cosa. Quindi il frutto più bello che Anna ha potuto avere, mi sono immedesimato, scusami Anna, che ti ho nominato, è che ha avuto tanto forza per farlo da sola, o che è riuscita a farlo da sola, anche le pulizie. No, io credo il frutto più bello è che mentre stava facendo ha potuto fare altro. E io credo che questo è il vero servire, essere aperti a servire in ogni cosa. Questo mi fa pensare... Tu e mamma avete preso la responsabilità della chiesa quando la chiesa era di quante persone? Una ventina massimo. Una ventina di persone. Una ventina di persone. E l'avete portata anche a un livello di influenza, di impatto che ha raggiunto centinaia probabilmente di famiglie. Con Gianluca parlavamo di stamattina di questo, che se forse tutte le persone che sono passate dalla nostra chiesa stessero ancora qui, probabilmente saremmo una chiesa di 15.000 membri. Però ecco, qual è stata la cosa che ha portato la crescita nella nostra chiesa? Quali sono state le persone e che tipo di carattere, che tipo di servizio, che tipo di attitudine queste persone hanno avuto da determinare una crescita per la nostra chiesa? Logicamente anche in tutto il mio percorso ci sono state sempre persone che si sono dedicate per servire, ma anche perché io sono fastidioso, vado a chiedere, richiedo, non mi arrendo, e allora anche se mi manda malamente, allora alla fine la persona lo fa, anche se lo fa solo o che lo faceva solo per me, lo faceva. Ma ciò che ho visto come reale cambiamento nelle persone, cioè non nelle persone, che è inutile parlare in terza persona, in voi che siete qui, è stato proprio la passione per servire il Signore in quello che si fa. Ma proprio io ho visto la passione, se io guardo in mezzo a noi, ho visto la passione, pazzia, che ne so io, di salvatore nel fare con i giovani, tante cose, tante, perché ho visto tanti giochi che ha fatto e quanto sono stati arricchiti, ma anche la passione e dedicazione di ognuno che è qui e che si dà. Ho fatto un nome perché mi è venuto un nome, però se io non vi devo guardare, se no vi nomino a uno, questa è la cosa più che ha determinato un reale cambiamento nell'essere leader nella Chiesa. È stato il sostegno più grosso negli anni, cioè non la persona, ma che tipo di carattere ha avuto quella persona da essere così tanto di supporto per te? Penso a Laura all'inizio, no, che è stato un grosso supporto. Sì. Che caratteristiche avevano queste persone? La caratteristica più grande, pensando proprio a quel tipo di persone, che poi sono ancora altre in mezzo a noi, è stato proprio quello di il come si fa. Non era importante che cosa si faceva, ma come lo facevano, questo mi ha sempre, come dire, sostenuto. Nel come lo facevano? Ma con molta semplicità, con molto amore del Signore e con molta sopportazione delle persone. Che poi ho voluto dire sopportazione, ma era vero amore, è vero amore. Se pensi anche al tuo percorso stesso, no, come leader, quali sono state gli aspetti nei quali più hai dovuto lavorare, anche nell'attitudine, nelle sfide che hai affrontato, quali sono state le cose che più è stato difficile anche modellare del tuo carattere con Dio? Difficile non lo so. Io so solo una cosa, che nel momento in cui ho detto sì al Signore nel servire, la sensazione che ho avuto è che mi sentivo con le spalle al muro. Questo vuol dire che dovevo dipendere completamente dal Signore. E avevo e ho delle grosse difficoltà. Per esempio, la più grande mia che posso vedere, che mi ha sempre seguito, la timidezza. Questa era qualcosa di così forte e determinante per tutto quello che facevo. Però come l'hai affrontato? Come l'hai vinta? Accettando le sfide. Quindi non lo so fare, ma lo faccio. Non so come devo fare, ma lo faccio. Ma era la mia anche una timidezza, ma lo è ancora, proprio patologica. Io combatto ancora, nel senso che veramente io ero timido. Poi logicamente la maturità, l'esperienza, maschera. Ma c'è, tu ci vivi, ci convivi, perché è diventato una caratterialità, è diventato un modo di essere, è un modo di sentirsi. Però non per questo io ritengo di essere quello, cioè timido. Io ritengo, ho sempre ritenuto, di essere quello che il Signore voleva da me. E da lì vedevo che anche il Signore tracciava le strade, i percorsi. Quindi qual è il consiglio che dai ai timidi in mezzo a noi, o alle persone che si sentono insicure in mezzo a noi? Siete i migliori. Perché quella è l'attitudine migliore. Chi è timido non si può nascondere. Quindi si deve proprio fracellare davanti al Signore, perché deve dipendere completamente dal Signore. E questo, ed è proprio questo, che permette di far venire fuori non solo il meglio della persona, ma anche il meglio di quello che Dio vuole dare. Sì, sì. C'è una frase che credo che poi molti di noi la conoscono, che dice: Dio non chiama persone qualificate, ma qualifica le persone che chiama. Quindi è Dio che poi fa questo. È il caso, credo, di tutti ma voi. È proprio il mio caso. Se io devo dire qualcosa di quando ero ragazzo, ma avevo una timidezza che andando pure a scuola ero così bloccato nella paura di pronunziare un termine difficile che immancabilmente lo sbagliavo, ma mi bloccava con il nodo alla gola da non pronunziarlo, con i miei parenti stessi. Solo con i miei amici più stretti io ero libero e ero aperto, altrimenti vivevo proprio questa difficoltà che poi sembrava che tu non volevi stare con l'altro, dare all'altro. Non era vero, e avevo gioia perché io stesso andavo a trovare i parenti, anche parenti litigati io andavo a trovare, va bene? Che i miei da parenti... credente? No, da non credente. Però poi stavo lì in silenzio perché ero così bloccato, così. E invece il Signore, la prima sfida che mi ha dato, appena mi sono convertito, ho accettato Gesù nella mia vita, e questo è stato, diciamo, durante i mesi estivi, agosto, e subito in quei mesi c'erano anche, che facevano allora culto all'aperto, uno che suonava la chitarra, se vedete le foto, è molto, molto, come dire, come le poltrone. Dai la tua testimonianza. E io ho parlato senza sapere proprio niente. Proprio non mi ricordo. Poi mi ricordo che è venuto un mio professore per complimentarsi con me. Allora ho capito che avevo detto qualcosa di abbastanza buono. Poi, subito dopo, cioè settimane dopo, era Alberto l'evangelista, mi chiedeva di predicare nel gruppo che si riuniva, Tonino lo sa, non lo so se è mai stato là, anche lui, sotto la torre, il primo di Tricarico, e mi ha chiesto: predichi tu, domenica. Mi sono preparato una settimana, davanti allo specchio, a gesticolare e a parlare, a vedere quello che dovevo dire. Sono arrivati là, preghiera iniziale, predicazione e preghiera finale, 7 minuti e mezzo. Non abbiamo tutta la serata, no, però. Se no, però c'è un'altra occasione. Se volete potete invitarlo a cena e vi racconterà tante altre di queste storie. Però c'è un'ultima domanda che voglio farti, perché quando si parla di ministero, quando si parla di leadership e quando si parla di responsabilità, si pensa poi sempre a quelle che sono le sfide, le cose difficili, le cose che non vanno bene, che vanno modificate. Dici, qual è stata e qual è tuttora la cosa che più ti gratifica e più ti ha motivato anche ad andare avanti nel ministero? Indubbiamente, io lo dico per me, è la cosa più gratificante, è sempre stato vedere che le persone andavano a Gesù. Quando io non sapevo come fare con le persone, veramente non, io avevo questo, quando mi raccontavano problemi che erano più grandi di loro, di me e di Dio stesso, allora io non sapevo, sapete come me ne uscivo? Preghiamo adesso. La cosa più sorprendente, che è questo, è il fatto, è che Dio rispondeva veramente alla preghiera. Ho vissuto cose, che sono rimasto io con gli occhi aperti, guardando, ma chi? Proprio perché è il Signore che lo fa. Perciò non c'è sfida grande. Anzi, io uso sempre dire, il tuo difetto che vedi tu più grande della tua vita è proprio la tua chiamata. Perché non è Dio che ti chiama, è il tuo difetto che ti chiama, perché deve diventare il tuo, la tua punta di diamante, come si dice, il tuo pregio, perché là proprio il Signore accetta la sfida di modellare certi caratteri. Volevo ringraziare il pastore. Grazie a voi. Paolo, vuoi pregare per tutti noi? Padre, possiamo dire grazie. E io voglio ringraziarti per tutti i tuoi servi qui davanti a te. È una gioia infinita per me vedere tutto questo. E io credo ancora di più per te. Se è scritto che per un peccatore che si ravvede c'è grande festa in cielo, io credo che per un servo che decide di servirti c'è proprio una baldoria che non finisce mai. Io ti ringrazio per ognuno e io voglio chiederti, oh Signore, proprio per coloro che hanno il desiderio di servirti, ma si sentono impediti o dalla propria caratterialità o dalle difficoltà della vita o dagli impedimenti che vengono a trovarsi, Signore, apri strade e fa che quel desiderio sia il mezzo nelle tue mani per costruire dei ministeri forti affidandoli a ministri tuoi. Signore, invoco veramente la benedizione per ognuno di noi, affinché ognuno di noi può comprendere come realizzare tutto quello che gli sta davanti o il desiderio in ogni momento e che non si gratifichi mai del fare ma del come. Signore, questo io prego perché ho visto che questo hai fatto per me un grande miracolo, una grande cosa. Perciò grazie per tutti noi. Amen. Vogliamo concludere, se mi date ancora 10 minuti? Sì, meno male. Uso questo micro. Con tre come che mi stanno a cuore. Okay, quindi se avete gli appunti, prendete appunti di questi tre come, sarò molto veloce, del resto sono cose che anche la maggior parte di noi conosce, però sono fondamentali. Il primo come è usando parole di vita. Noi siamo efficaci come leader nel momento in cui adoperiamo un linguaggio che è un linguaggio di vita. Un linguaggio, se volete, permettetemi di utilizzare questo termine, un linguaggio che è profetico. Il linguaggio profetico qual è? È quello che troviamo in 1 Corinzi 4, versetto 13, che dice: chi profetizza usa invece un linguaggio di edificazione, ripetete con me, edificazione, di esortazione, ripetete, e di consolazione. Noi dobbiamo, è così importante che noi ci appropriamo di un linguaggio profetico. Sapete, qualche settimana fa, forse qualche mese fa, eravamo in chiesa a un incontro, credo della mattina, e un leader in mezzo a noi era proprio lì che stava scegliendo di lasciare la propria responsabilità, di lasciarla perché era arrivato a un momento difficile, era un momento dove le cose diventavano troppo pesanti nella sua mente, quindi proprio quella mattina ha detto: io lascio, io mollo questa responsabilità. Quella stessa mattina Dio ha parlato a un'altra sorella della Chiesa che non sapeva assolutamente niente né del fatto che questa sorella avesse una responsabilità né del periodo che lei stava vivendo ed è andata da questa sorella per dirle: il Signore mi ha detto non smettere di servirlo, continua a servirlo, continua a fare quello che lui ti ha affidato. Non è bellissimo? Questa sorella è venuta da me e ha detto: io volevo lasciare tutto, ma il Signore mi ha comandato, mi ha messo con le spalle al muro e adesso voglio continuare e ha più motivazione di farlo, e questo è ciò che fa la parola profetica. Non perdere occasione di parlare profeticamente. Non significa che devi avere per forza una visione profetica, che deve, il Signore ti deve parlare, ma se tu esorti, se tu edifichi, se tu consoli, stai già adoperando un linguaggio profetico. Quindi nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca. Ma se ne avete una buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché porti grazia a coloro che l'ascoltano. Questo è come noi vogliamo vivere la nostra leadership, non con parole di morte, non con parole cattive, non con parole acide, non con parole fuori posto, ma quello che uscirà dalla nostra bocca come leader saranno parole profetiche, di edificazione, di esortazione, di consolazione. Secondo modo nel quale noi vogliamo essere leader è creando un ambiente di gioia e senza pesantezza. Sapete che la gioia è una nostra decisione? Perché se no nella Bibbia non sarebbe scritto rallegratevi, ve lo ripeto, rallegratevi, è una nostra decisione. Tu puoi essere qui appesantito o puoi essere qui gioioso. Vedo Antonio che è qui gioioso, che annuisce, che è contento, non lo so perché, però è contento di stare ancora questi 10 minuti insieme. Cioè che è qui appesantito, magari dalla propria giornata, senza giudizio, senza appesantirvi a mia volta, però magari è un po' cupo di suo, proprio il suo atteggiamento. Il Signore ti benedica e ti porti gioia, perché noi vogliamo creare un ambiente di gioia e non di pesantezza. E sapete, c'è un modo attraverso il quale noi possiamo vivere un ambiente di gioia e senza pesantezza. C'è scritto in Ebrei 13:17, so che sono parole un po' pesanti, l'abbiamo letto sempre un po' con scetticismo questi versi, però la Bibbia dice: ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché, sentite ora, sottomettetevi ai vostri conduttori affinché facciano questo con gioia e non sospirando, con gioia e non con pesantezza. Felù, con gioia e non con pesantezza, non perché ha bisogno di gioia e non pesantezza, ma perché annuiva con me, dice sì, questo ci vuole, più sottomissione, ed è giusto, noi dobbiamo vivere la sottomissione e dobbiamo anche farla vivere, Felù, è giusto che noi insegniamo anche agli altri la sottomissione, l'ubbidienza ai nostri conduttori. Noi tutti siamo sottomessi a delle autorità e siamo anche in autorità. Come possiamo insegnare al meglio la sottomissione? Vivendola, essendo sottomessi noi stessi. Quindi creiamo un ambiente di gioia, creiamolo questo ambiente di gioia e senza sospirare, sottomettiamoci. A volte non è facile, pure io sono il primo che proprio non mi piace essere comandato a bacchetta, ma se qualcuno mi dice di fare qualcosa ed è necessario, perché no? La Bibbia dice sottomettetevi gli uni agli altri, e se questo può agevolare un clima, un'atmosfera di gioia, senza che qualcuno stia lì sospirando, appesantito, esausta, stanco di quello che fa, facciamolo, portiamo un ambiente di gioia. Siete d'accordo con me? Basta, no depression. Una volta feci uno studio al team dei leader, no depression. Noi non siamo qui per deprimerci, siamo qui per portare gioia, per portare vita, no? Ultimo punto, non prendendoci sul serio. Non prendendoci troppo sul serio. E per questo non ho un verso di riferimento. Però se l'ha detto Noemi domenica, per me fa testo, ok? Quindi visto che l'ha detto Noemi domenica e l'ha predicato con così tanta enfasi, non prendiamoci troppo sul serio, uso pure il tono di Noemi, non prendiamoci troppo sul serio, siamo gioiosi. E sai una cosa? La responsabilità che porti non è una questione di vita o di morte. Se un turno viene meno, se qualcuno viene meno, se il mondo crolla, Dio rimane sovrano e Dio porterà avanti la sua chiesa, perché ha scelto lui di edificarla, non ha detto che devi edificarla tu, da solo, nella tua responsabilità. C'è mio padre che c'ha un magnete appeso nel suo ufficio che dice Dio esiste e non sei tu, quindi rilassati, questo dice il magnete. Posso dirtelo questa sera? Dio esiste, ed è vero, ma non sei tu, quindi rilassati. Se manca qualcosa, non crollerà il mondo. Se gli ambienti non saranno puliti all'eccellenza, questo è quello che dico sempre ad Antonio, se dovessimo mancare un turno dell'eccellenza, e che fa? Qualcuno vedrà la carta e dirà, forse mancano volontari nell'eccellenza. Quindi non venire, così aumenti questo reclutamento di volontari e più persone vivono il peso e la responsabilità di fare, Anna, hai sbagliato stamattina. Non dovevi venire, però ha dato un bellissimo esempio. Però non lo facciamo sospirando. Se vieni in questo luogo e hai pesantezza in quello che fai, non lo fare. Te lo dice il pastore. Devi venire, se hai pesantezza, Antò, sei libero. Domenica, se mai dovessi vivere pesantezza, sabato, non venire. Non veniamo, ok? Il pastore stasera vi sta dando un messaggio. Non venite in chiesa. Non venite più se dovete portare pesantezza, se dovete portare scoraggiamento, amarezza, giudizio, lamentela. Questo non è il luogo delle lamentele. E Luigi se n'è scappato via, come a dire, sono troppo d'accordo, sono così gioioso che devo correre, devo scaricare questa energia, se ne sta andando a lavoro. Ciao Luigi, buon lavoro. Quindi non ci prendiamo troppo sul serio. Amen? Dire alla persona che ti sta a fianco, non ti prendere troppo sul serio. Dio ha il controllo di questa chiesa. Non mi prendo troppo sul serio io, forse dovevi prendermi un po' di più sul serio. alziamoci in piedi, ma non c'è altro modo di alzarsi, quindi alziamoci e basta. E vogliamo pregare. Metti la mano sulla spalla del fratello o della sorella che ti sta più simpatico vicino a te e prega per lui, per lei, benedicila e il Signore ci benedica. Buona settimana, buona continuazione nella vostra responsabilità, nella vostra leadership. Conquisteremo grandi territori per la gloria di Dio. Amen? Amen. Quindi prega, benedici e vai in pace.